scorriendo le spine scendono su me, e oggi come ieri vedo facce di cera e bambole impazzite, tutte contro a quello che con lei le mie stagioni, non c'è